Interferenze. Nazionale 11:20 minuti 30 secondi con noi in studio come ogni giovedì Andrea Bornina. Buongiorno Luigi e gli ascoltatori. Con le sue interferenze, questa volta interferenze che arrivano attraverso radio a onde corte. Peraltro Andrea Bornino, e lo dico a chi è collegato e può seguirci, abbiamo un oggetto in studio. Abbiamo un oggetto particolare in studio, che cos'è? Dunque, io vi faccio sentire il rumore, che tanto siamo alla radio. Il rumore si sente decisamente. Ecco, io adesso l'ho caricata, gli do il femminile e poi ascolto. Questa è una radio a manovella, una radio che non ha bisogno di batterie né di corrente elettrica per funzionare, quindi ha dietro una grande manovella, ha anche un pannello solare, quindi può funzionare ovunque in maniera indipendente. C'è chi queste radio ha capito che possono essere uno strumento chiave per l'educazione, la diffusione delle informazioni, insomma per la democrazia, perché educazione e informazione sono le chiavi di ogni democrazia. Che cosa voglio raccontarvi? La storia di una piccola charity americana, si chiama Ears to Our World. Io ho incontrato in America 2 settimane fa Thomas Winterspoon, cioè colui che ha ideato questa idea di prendere delle piccole radio a manovella e di spedirle in alcune parti del mondo in cui anche soltanto avere una pila o avere l'elettricità è qualcosa di difficile. Ascoltiamo la sua voce che ci racconta perché questa idea di spedire delle radio in giro per il mondo. Ears to Our World is a non-profit, we're a charity organization and we believe that access to information. Ears to Our World è un'organizzazione no profit. Per noi l'accesso all'informazione significa accesso all'educazione. Quello che facciamo è inviare gratuitamente radio autoalimentate nelle zone più remote del mondo. In questo modo le persone possono, con soli 2 minuti di carica della radio, ascoltare programmi per 40 minuti e possono ricevere tramite le onde corte tutti i maggiori broadcaster radio del mondo. Per esempio, nel centro del Sud Sudan possono ascoltare quello che succede nel mondo intorno a loro e comparare le notizie delle emittenti internazionali con quelle delle loro radio nazionali o locali. La radio a onde corte viene diffusa praticamente alla velocità della luce, non c'è nessun buffering, è istantanea, è gratis, non bisogna avere iscrizioni, è il sistema più veloce ed efficiente. Molte persone non ascoltano più le onde corte perché abitano in zone molto abitate, con molti disturbi elettrici. Ma quando vivi nelle zone rurali del Sud Sudan non ci sono questi problemi e per molti broadcaster internazionali l'Africa rimane uno dei target principali e quindi possono ascoltare una grande selezione di contenuti radiofonici. Uno dei programmi più ascoltati in Sud Sudan, per esempio, sono i corsi di inglese di Voice of America, molto utili proprio adesso che l'inglese è diventata una delle lingue ufficiali del paese. Con poche lezioni che utilizzano un vocabolario primario di 1400 parole, si possono ricevere notizie e radiodocumentari. E questo era Thomas Witherspoon, intervistato da Andrea Bornino. Thomas Witherspoon, fondatore, come dicevamo prima, di Ears to Our World, questa piccola charity americana. Andrea, lo diceva anche Witherspoon, faceva alcuni casi, le mandiamo nel Sud Sudan, so anche in Sierra Leone, Haiti, Uganda, Mongolia. In che contesti? Dunque, non sono solo contesti di guerra, perché secondo loro l'utilità di queste radio è appunto aiutare chi sta imparando cosa succede nel mondo. Quindi sono contesti in cui soprattutto loro le tentano di mandare nelle scuole, dove chi le usa è qualcuno che ha bisogno di informazioni e non ha nessun modo per trovarle. Quindi sono contesti appunto di zone abbastanza remote del pianeta, le hai citate tu, Haiti dopo il terremoto, ma anche la Mongolia, ma anche il Kenya, che è un paese sviluppato, ma evidentemente ci sono zone in cui non è possibile accedere anche semplicemente all'elettricità. Le radio vengono mandate dove anche si sa che ci sono broadcaster internazionali come la BBC, come Voice of America, come Radio France, che fanno programmi apposta per quelle zone nelle lingue originali. Quindi c'è una specie di anello che si chiude e praticamente loro poi tra l'altro non hanno rapporti diretti con le radio, loro semplicemente si mettono in contatto con delle entità locali, preparano la spedizione e poi seguono per capire se queste radio sono state utilizzate. Ascoltiamo ancora Thomas Winterspoon che ci dice l'importanza di queste trasmissioni in onde corte per questi paesi. Yeah, right now shortwave radio is still very much a lifeline of information for them. Ancora oggi le onde corte sono una fonte principale di informazione per questi paesi e non ci sono molte altre opzioni. È vero che la diffusione dei telefoni cellulari e l'internet sta aumentando, ma bisogna ricordarsi che la maggior parte delle persone non si possono permettere un contratto telefonico o uno smartphone. E poi c'è il problema dell'alimentazione, in quanto in molte zone non c'è la corrente elettrica. Questo viene risolto dalla radio, così semplice e così efficiente. Con due semplici batterie stilo, una delle nostre radio funziona per oltre un mese di ascolto. In questo modo l'investimento minimo è ripagato al massimo. Nel caso peggiore, le radio possono essere sempre ricaricate a mano. Tecnologia quindi a bassissimo costo, Andrea Bognino, ma torniamo a parlare di contenuti. Parlavi di grandi broadcast internazionali, BBC o Voice of America. Ci sono anche produttori locali? No, in verità no. Loro non hanno contatti con le radio locali, perché loro, secondo loro, il valore di questo loro progetto è di aprire un contatto tra questi paesi e quello che succede attorno. Perché secondo loro il fatto anche di poter ascoltare le informazioni locali e confrontarle con l'edizione di BBC Africa è educazione, è un valore assoluto questa cosa, quindi il loro progetto è quello. Mentre preparavo questa puntata ho pubblicato su Facebook la notizia di appunto Ears of Our World, mi ha contattato il direttore di Radio Bryan West, che è la radio dei nostri militari in Afghanistan, che mi ha ricordato che ISAF, cioè la missione in Afghanistan, regala migliaia di radioline a manovella come questa anche là. Quindi fanno la radio e regalano le radioline per ascoltarla, giusto per, appunto, non è un'idea comune questa di dare strumenti per l'ascolto. Grazie Andrea Bornino, grazie anche per aver portato in studio, spero davvero che alcuni ascoltatori possano anche vederci questa volta, perché davvero l'abbiamo messa anche su Twitter, esattamente, La radio vale la pena vederla, quindi la possono ritrovare anche sul nostro account Twitter, che ricordo è Radio Tremondo, questa bellissima radio a manovella che proverò a portarmi a casa se Andrea Bornino me lo consentirà. E si chiude così oggi la nostra puntata di Radio Tremondo, con i saluti in regia di Costanza Confessore, la curatrice del programma Cristiana Castellotti, in redazione Anna Maria Giordana e Marina Lalovic, la console c'è Gina Collauto, qui accanto a me Andrea Bornino. Un saluto a tutti. E Luigi Spina che vi sta parlando. Radio Tremondo, lo ricordo, tornando mattina alle 6.50 con la rassegna della stampa estera e poi di nuovo alle 11. Ricorda agli ascoltatori anche che è partito davvero il conto alla rovescia per la festa di Radio 3 a Perugia, Radio Europa, dal 13 al 15 giugno, arte, musica, teatro, ovviamente i programmi di Radio 3 che andranno in onda in diretta da Perugia. A questo punto non mi resta che cedere il microfono a Rossella Panarese. A tutti voi buona giornata, Luigi Spinola.